Gorgo, l'orco dorato. Gorgo, suo padre e lo Slurm fluttuavano e dondolavano dentro le bolle rosse dirette verso il centro della città degli orchi neri. Dietro di loro anche Borgo viaggiava verso la città. I suoi amici stavano dirigendosi verso una delle enormi torri a spirale dalle punte aguzze e vi finirono sopra. Le bolle scoppiarono e i tre piombarono sulla superficie a spirale della torre che era liscia come il vetro. Cominciarono a scivolare giù sempre più velocemente verso la città. Superando ponti e altre torri, finirono dentro un tunnel che terminava in un'enorme piscina rossa, piena di vapore e di bolle, che si trovava al centro di un grandissimo salone illuminato da palle di fuoco. Orchi neri e Slurm circondavano la piscina. Tre Slurm più grandi del padre di Gorgo li tirarono fuori. Non riuscirono nemmeno a estrarre le spade. Un orco grande e grosso con due teste grugnì con ambedue le bocche. Un orco rosso, un baby Slurm e... Guardò meglio con i suoi quattro occhi e poi... Un orco dorato! Disse. Il re dovrà darmi una ricompensa per questa preda. I giganteschi Slurm si caricarono i tre sulla schiena, legandoli con i loro tentacoli, e li condussero per delle lunghe, strane scale a chiocciola. Qua e là si intravedevano degli orchi neri che strisciavano, ridevano o gridavano. Ogni tanto attraversavano dei ponti e vedevano sotto di loro lo stagno rosso. Infine giunsero in una grande sala rotonda, con delle gigantesche finestre aperte. Erano in cima alla torre. Terribili orchi neri facevano la guardia. Il re degli orchi neri sedeva in mezzo alla sala su un trono di ossa bianche. Era piccolo, non aveva collo, né braccia, né gambe ed era tutto ricoperto di foruncoli bianchi. Aveva un unico occhio rosso che poteva spostare in qualsiasi parte del corpo. Davanti a lui, su un piccolo pilastro di pietra nera scintillante, c'erano 9 pietre gialle infilate in un triangolo di ferro. Le pietre solari. Gli Slurm obbligarono Gorgo e suo padre a inginocchiarsi. L'orco a due teste strisciò sulla pancia verso il re. Non farmi del male! Non farmi del male! Gridavano le sue due bocche. Ho una bella cosa da donarti e potrai ucciderla, un orco dorato! Gli occhi del re si fecero cupi. 5 dei suoi foruncoli tremarono e un lungo dito ossuto saettò fuori da ciascuno di essi. Le dita afferrarono l'orco a due teste, lo scossero di qua e di là un paio di volte e poi lo scaraventarono fuori dalla finestra. Gli altri orchi risero, applaudirono e agitarono i tentacoli. Gorgo era terrorizzato, ma non poté trattenersi dal chiedere: ma perché uccidete i vostri stessi orchi? Un sussurro cattivo e flebile uscì da una fessura della testa del re. Per dimostrare che solo io sono il re, sibilò. Allora la sua voce acquistò forza e la bocca si spalancò fino a diventare un enorme buco rosso mentre gridava: solo io sono il re! Gli orchi neri e gli Slurm tremarono e piagnucolarono di paura. Il re puntò il triangolo di pietre solari verso il piccolo Slurm che saltò fra le braccia di Gorgo. Metti giù quello Slurm! Voglio ucciderlo! Ordinò il re. Gorgo era troppo terrorizzato per rispondere, ma non abbandonò lo Slurm. L'occhio del re diventò nero, un fascio di luce gialla si sprigionò dal triangolo e colpì un grosso orco dai 10 occhi che svanì, lasciando al suo posto solo una debole fiammella gialla. Mettilo giù o ucciderò entrambi! Il padre di Gorgo stava diventando sempre più furioso e si slanciò selvaggiamente sul re. Ma le terribili dita ossute del re lo afferrarono, lo scossero di qua e di là e poi lo scaraventarono fuori dalla finestra. Gorgo scoppiò in lacrime, corse verso il triangolo di pietre e lo puntò contro il re. Solo io posso sparare con le pietre solari! Rise il re. Solo io sono capace di odiare a sufficienza e con l'odio che funzionano! In quel momento Gorgo sentì qualcuno che lo chiamava. Era la voce di Borgo. Volando a cavalcioni di un pipistrello rana, Borgo entrò nella stanza, insieme al padre di Gorgo, sempre più infuriato. Tuo padre non è morto, l'ho recuperato in tempo. Borgo atterrò e si alzò in piedi dicendo: è vero, l'odio fa funzionare le pietre, ma un grande amore è più forte dell'odio. Gorgo pensò a suo padre, a Borgo, al piccolo Slurm e a Zago. Provò un meraviglioso e solleticante senso di calore che gli percorse tutto il corpo e fluì nel triangolo di metallo. Le pietre rifulsero e dei cerchi vibranti di energia solare circondarono il re, che si dissolse in mille fiammelle gialle. Il pipistrello rana di Borgo si abbassò. Il piccolo Slurm saltò in braccio a Gorgo che, tenendo stretto il triangolo, montò sulla schiena della rana. Volarono tutti fuori dalla finestra. Gli orchi neri, a cavalcioni dei loro pipistrelli rana, stavano sciamando fuori dalla torre. Uccidili, uccidili! Gridò Borgo a Gorgo. Non riesco a odiare nemmeno gli orchi neri e perciò non riesco a usare le pietre! Pensa a noi, salvaci, pensa a Zago! Lo esortava suo padre. Gorgo prese la mira e delle frecce di luce volarono sulla torre, trasformandola in un pilastro d'oro che crollò nel centro della città. Gli orchi neri si dispersero terrorizzati. Muoviti, Pipira! Brontolava Borgo. Pipira? Chiese Gorgo. Non lo sai, eh? I pipistrelli rana si chiamano così. Li ho trovati appesi a capo in giù e li ho rubati. Poi ho pensato che era meglio venire a salvarti. Ho preso al volo tuo padre mentre stava precipitando. Quasi non ce la facevo. Grazie per averci salvati, disse Gorgo. Quasi quasi non lo volevo fare, ma poi mi sono detto, lo faccio o non lo faccio? Sì o no? E poi hai detto, va bene, va bene, va bene, rise Gorgo. Borgo era stupefatto. Ma come fai a saperlo? Gorgo continuò. E allora uno dei tuoi corni è diventato dorato, proprio come uno dei tuoi, padre. Era proprio vero, ma nessuno se n'era accorto in quella confusione. Perfino Borgo rise felice. Volarono verso il loro villaggio attraverso un cielo dorato, con lo Slurm addormentato fra le braccia di Gorgo. Presto sarebbero arrivati a casa e Zago sarebbe guarito.